te bello, spiradando sentimento, e come tu, a chi tiene a mente, e cascetato a foglie sonna. Guarda qua chi stu giardino, siente si esti sur arance, no profuma così fine, od in tuo cuore se ne va. Ecco dici parti addio, ma quanto ne resto te, dalla tua errata amore, tiene a cuore non tornerà. Catarina, non te scordare. cataggio date o cuore catarì non te scurda catarì catarì che venne a dicere stu parlò con me da sposa me tu Cente v'è caduta, dicite meno poco a che pensate, questo chiedoce, voi e solo a me guardate, levamme c'è sta maschera. Hey! se spezza mai. Suona già il tiro, sospiro mio carno, te cerco come l'orio, te voglio per campare. Già la sata, mamma mia, per Piscatore do capo e pusilleco, ogni notte me siente canta. Piscatos di parole sollagra me, ben Maria caro lontana me sto. Dorme, o mare, poca poca, tutto è pace a cuore la me, ma pecca, ma pecca, ma lasciate, mentre io moro stanotte. Zitto i core ca in terra pusilleco, ve con ombra ca segno me fa. Na manella e na voce me chiamano, fra sti braccia Maria vo. Poi bella viene, c'è la luna soglie va. Vita mia, ma può bene, così è suona, non fare me. Dorme, o mare, voca, troppo crudo il destino del mio cuore, che languendo al vostro ardore della fiamma in sé celò. Troppo crudo il destino del mio cuore, che languendo al vostro ardore della fiamma in sé celà, che languendo al vostro ardore della fiamma in sé ce l'ha. tiranna è la mia sorte, che soffrir dovrò la morte. Pria cal mio fatale amore, premiam di posso al mio fatale amore, premiam di possa sperar. Vaghe luci è troppo crudo il destino del mio cuore, che languendo al vostro ardore della fiamma in sé ce l'ho. Vaghe luci è troppo crudo il destino del mio cuore, che languendo al vostro ardore della fiamma in sé ce l'ha. Che languendo al vostro ardore della fiamma in sencela. Se va che siete del mio dolor, togliatemi la vita ancor, togliatemi, togliatemi, togliatemi la vita ancor, togliatemi la vita ancor. Con raggio dorato, con raggio. mistero e gli astri del cielo dipinge nel prato. Rugiadose, odorose, violette, graziose. Rugiadose, odorose, violette, graziose, violette, graziose. Voi vi state vergognose, mezzo scuse fra le foglie, e sgridate le mie voglie, che son troppo ambiziose, e sgridate le mie voglie, che son troppo ambiziose. Rugiadose, odorose, violette, violette, graziose, rugiadose, odorose, violette, violette graziose, violette graziose. Voi vi state vergognose, mezzo scuse fra le foglie, e sgridate le mie voglie che son troppo ambiziose. E sgridate le mie voglie che son troppo ambiziose. Rugiadose, odorose, violette, violette, graziose. Rugiadose, odorose, violette, violette, graziose. Violette, violette, graziose. Venite a consiglio, pensieri, venite a consiglio, pensieri. Come ser mai può, come ser mai può, chi osserva e se mira, che scopo è dell'ira di chi mi infiammò. Se scopo è dell'ira di chi mi infiammò, no, no, no, no. È meglio soffrire, penare, morire, che mai rimirare, che mai rimirare oggetti sì fiori. E lasciate i consigli, o pensieri, lasciate, lasciate i consigli, o pensieri, lasciate, lasciate i consigli, o pensieri. Tornate a consiglio, pensieri, tornate a consiglio, pensieri. Chi il seno m'aprì con dolce ferita, con dolce dolce ferita vedrà che è schernita sua fede così. Vedrà che è schernita sua fede così. Sì, sì, sì, sì. Il cielo permetta men grave vendetta d'estim più soave, d'estim più soave, forza, ch'io speri. Oh, lasciate i consigli, oh, pensieri, lasciate, lasciate i consigli, oh, pensieri, lasciate, lasciate i consigli, oh, pensieri. Rispondi, mori. lasciarlo per sempre, lasciarlo così. Se dice dov'è l'amico infelice, rispondi mori. Se cerca dov'è, rispondi mori. Credimi almen, senza di te languisce il cuore. Caro mio ben, senza di te svegliatemi, ninetta, braccio non dorma più, braccio non dorma più. Svegliatemi.

resta nel sonno, è certo la regal signora, ma veglia la sua donna. Onne un'ora modesta sei, bel dice da quel velone, nevola che un raggio della notturna lampa. E più vivere non può. non può, non può, non è più che non può.